come sei entrato bene nell'FNB, eh? La parola a Lucasso Luciano, segretario di Cuneo. L'intervento concreto, nel senso silenzio. Dorinelli, anche calmi. No, ma il segretario generale lo fate dopo, ormai l'avete già fatto, il prossimo congresso, aspettate un attimo. Dato che mi occupavo prima di recapiti, via dicendo, quindi sul concreto, io penso che noi dobbiamo ritornare all'origine. I servizi sono per gli iscritti, cioè sono nati per dare delle risposte a chi era iscritto, non ad altri. Secondo me, perché dico questo? Perché il fatto oggi che si possa fare un 7.30 o altri servizi a pagamento fa sì che chi è iscritto, chi paga 30 euro di tessera lo fa, ma chi ne paga 80 dà le disdette perché gli costa di meno, cioè in estrema sintesi. Allora, ha un senso questo. I pensionati oggi, se guardiamo cosa diamo noi ai nostri iscritti, diamo qualche servizio, è vero, c'è l'accordo nazionale, ma è come gli accordi che si facevano in fabbrica, i contratti nazionali. Valeva di più compilare gli assegni familiari che non portargli 100.000 euro d'aumento sul contratto, perché l'assegno era suo, era l'attenzione alla persona. E noi abbiamo costruito i nostri iscritti in questi anni con questa attenzione, quello che oggi non c'è più. Ma non c'è più perché? Non perché gli operatori del capo dell'INAS non hanno nella testa, ma non hanno più tempo. Allora, noi a casa nostra, gli operatori del CAF, quelli a part-time, li assumono a 16 o 20 ore per avere la possibilità di fare poi il prolungamento. Ma secondo voi chi è che si impegna con 16 ore o 20 ore di lavoro? Cioè, a me sembra un assurdo. E se la società che gestisce, la società che ci fornisse gli operatori, se ci guadagna per qualcosa, perché non possiamo farlo noi direttamente, noi o comunque un ente che fa capo a noi, perché questa roba avremo un po' più di gestione. Se la gestione del CAF non ritorna, perlomeno da un punto di vista di concetto all'interno della CISL, secondo me questo problema non lo risolviamo. Allora bisogna che i territori abbiano almeno un minimo di autonomia. Manca una persona, c'è da fare le prenotazioni, non è possibile che bisogna sempre ricorrere a altri e alla fine non si ha nessuna risposta. Io penso che questo sia estremamente importante, perché poi aggiungerò alcune cose, ma io, dato che gli iscritti, la gente mi chiede, dice, ma dopo che mi hai fatto quello che dovevi farmi, cosa ti devo a te? Dico, fai l'iscrizione. Cioè, non c'è la difficoltà come in fabbrica, ma poi il datore di lavoro cosa dice? No, i pensionati sono disponibili, però dobbiamo dargli qualcosa. E soprattutto queste cose che diamole, non diamole con la testa, ma diamole col cuore. Perché io mi ricordo, mia madre, arrivava una busta di qualche ente con la paura che ci fosse qualcosa dentro, mi diceva, guardala tu che io non so cosa c'è scritto. Cioè, la fragilità degli anziani è anche questa. E noi su queste cose possiamo costruire il consenso. Poi può darsi che il problema non lo risolviamo, ma questa attenzione deve essere richiesta a noi e dobbiamo richiedere ai nostri servizi. La seconda cosa, se non facciamo i servizi integrati, qualcuno mi diceva, sono 10 anni, è vero, ma se non li integriamo, INAS e CAF e gli altri, non riusciremo a uscire fuori da questa situazione, perché non ce n'è per l'uno e non c'è per l'altro, e i finanziamenti un giorno o l'altro finiranno. Perché se avevano un senso 30, 40, 50 anni fa, oggi non hanno più senso. Noi facciamo delle domande di pensione a chi prende 3.000, 3.500 euro di pensione al mese e mi dice, io non mi iscrivo perché tu sei obbligato a farmela. Poi faccio l'assegno sociale e mi dice, te ti do 20 euro perché mi hai fatto... Ha un senso questo. Allora, non posso farlo pagare perché ho il finanziamento pubblico, però questo potrebbe comunque avere le risorse per farlo. Quindi questa roba in qualche modo va disciplinata, e se non riusciamo a farla perché il CAF non ci sta dentro nei soldi, le risorse molto probabilmente andrebbero date di più sul territorio, perché posso capire tutto, ma se gli iscritti vengono dal territorio, il territorio ha la maggioranza delle risorse. Se chi mi ha preceduto diceva il 70% dell'importo, sia almeno il 70%, perché oggi è qualcosa come il 49% tra confederazioni e via dicendo. Quindi, e usiamo questi soldi proprio per questi servizi. L'ultima cosa, sulla contrattazione. Noi oggi facciamo la contrattazione con i comuni, nazionale fa la contrattazione col governo e così via. Ma chiedo, non è possibile fare una contrattazione sulla salute? Perché dico sulla salute? Perché è uno degli elementi in cui i pensionati ne hanno più bisogno. Perché il ticket deve essere a 36.000 euro sì, 35.900 e qualcosa sì, 36.200 no? Perché non può essere graduato, ad esempio, da un punto, e quindi una trattativa anche con la regione per far sì che sia un ticket equo. Due persone, marito e moglie, che hanno 1.500 lordi al mese superano i 36.000 euro, 1.500 lordi diventano 1.200 netti, quindi non sono pensioni astronomiche. Allora, è possibile ragionare in questo senso, è possibile anche introdurre dei meccanismi, degli accordi con chi volete, per intanto difendere la salute pubblica, perché questo è un bene preziosissimo e non è detto che rimanga, ma nello stesso tempo di offrire delle occasioni ai nostri pensionati, assicurazioni, vedete quello che volete, accordi con privati, in cui possiamo giostrare questa possibilità. Io ritengo che se noi riusciamo a entrare in questo meccanismo e a fare questa roba e soprattutto a lavorare col cuore, vorrei ancora citare, qualcuno citava Papa Francesco, io cito l'Evangelium Gaudium, che dice semplicemente questo, che noi dovremmo essere portatori di idee, non preoccuparci di occupare posti. E io ho l'impressione che siamo più, che occupiamo più posti che invece essere portatori di idee. Grazie. Grazie.